tutto, però al volo ci siamo organizzati per una prima corrispondenza relativa al mondo della scuola. Ora ci faremo raccontare tutto per bene, insomma, dalla compagna che interverrà, ma insomma è notizia che immagino sia su tutti i giornali questa mattina, perché i risultati relativi a questa prova effettuata all'interno delle scuole con questi quiz di valutazione, insomma, chiamati invalsi, sembra sia miseramente fallita. È l'epicentro, insomma, di questo, come vogliamo chiamarlo, boicottaggio, forse sarebbe la parola giusta, è stata proprio la nostra città, in particolare in alcune scuole, in una delle quali addirittura c'è stata una sospensione di massa, perché gli studenti si sono addirittura rifiutati, insomma, di ricevere questi fascicoli, questi quiz, questi fogli, insomma. È un'operazione, tra l'altro, che dal punto di vista dei costi è sicuramente stata, se si è rivelata sicuramente uno spreco, tra l'altro, insomma, poco funzionale anche agli obiettivi che si pone l'operazione stessa, e soprattutto, insomma, ha visto uniti gli studenti, ma gli stessi insegnanti che hanno partecipato, diciamo, a questa protesta collettiva che si è avuta nelle scuole proprio in questi giorni. Da alcune statistiche, insomma, sembra che comunque gli insegnanti che si siano rifiutati di prestare il fianco a questa operazione sono davvero tantissimi. Si parla addirittura di uno su due in alcuni centri. Comunque, noi abbiamo in serbo un collegamento con una nostra compagna che sicuramente ne saprà di più. E allora dovremmo essere al telefono con Margherita. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, insomma, con piacere questa mattina, sfogliando i giornali, abbiamo così avuto piena coscienza di quanto successo all'interno delle scuole italiane, perché, insomma, i risultati di questa operazione definita Invalsi, che è il nome appunto di questi quiz, come vogliamo chiamarli, Margherita? Ecco, magari adesso tu darai una definizione un po' più corretta. Ecco, questa operazione abbiamo appreso che è miseramente fallita. Risposta multipla, Ecco, sono quiz a risposta multipla. basati su Quiz a crocette, Su proprio. dei test, sono dei test appunto che dovrebbero testare la preparazione di italiano e matematica degli studenti e delle studentesse dalle scuole primarie fino alle scuole superiori. Adesso l'ha detto la Gelmini e l'ha fatto, e sono dei test che non hanno nulla a che vedere con i programmi scolastici che gli alunni e le alunne svolgono durante la loro carriera scolastica. Quindi diciamo sono già calati di per sé, sono decontestualizzati, ecco. È un'altra cosa, diciamo, abbastanza sconvolgente, è che non tengono conto assolutamente, cioè, sono delle cose che, partendo da un'esigenza giusta, che è il sistema di valutazione nazionale, che dovrebbe servire per parlare per poter valutare e vedere che offerte culturali si danno a tutte le scuole del regno, in realtà verranno usati per dire che ci sono delle scuole che funzionano e che quindi verranno finanziate e delle scuole che non funzionano e che quindi non verranno finanziate. Bene, quindi insomma fa bene chi individua proprio nei tagli e nelle manovre che sono state fatte nella scuola ultimamente il vero diciamo motivo, il motivo principe che ha fatto scattare più o meno questa protesta, perché poi, insomma, chiedere valutazioni sulla base Questa poi è di un'ulteriore scusa per il taglio alla scuola pubblica in Italia. La scuola pubblica in Italia, che dovrebbe essere gratuita e con libero accesso per tutti e tutte, viene, diciamo, attaccata da questi test. dei quali, diciamo, in generale un sistema di valutazione che valuti l'andamento, diciamo, il progredire della cultura e delle informazioni offerte nelle scuole di per sé non è nulla di sbagliato, anzi, però diciamo che cozza assolutamente con la riduzione del personale, i tagli assoluti che ci sono perché le scuole possano offrire delle cose adeguate ai tempi, perché possano avere i laboratori, perché possano fare delle attività che hanno un senso con la realtà circostante, che ne so, non fare avere a un istituto tecnico informatico l'aula computer è una cosa assolutamente fuori di testa. Questo può avvenire in Italia, però gli fai un test in Valsi, e allora a questo punto te vuoi soltanto dirmi che vuoi un ulteriore te ministro, mi vuoi soltanto dire che vuoi un'ulteriore scusa per non finanziare la scuola pubblica e potenziare la scuola privata, perché nello stesso tempo questo governo dà tantissimi soldi alle scuole private, sia primarie, sia le medie, sia insomma le scuole superiori. Una cosa grave, secondo me, è che oltretutto, che ne so, se prendiamo l'esempio della matematica, la matematica si sa serve, l'insegnamento della matematica serve per dare uno degli obiettivi è quello di abituare alla soluzione dei problemi, e si è sempre detto che un cattivo professore di matematica, cattivo tra virgolette, è quello che ti insegna la formula che tu applichi ma non capisci quello che fai. Ebbene, i test Invalsi di matematica richiedono soltanto la conoscenza mnemonica delle formule, e quindi già la dice lunga su quanto sul rispetto dell'intelligenza degli alunni e delle alunne, e soprattutto su quale tipo di scuola e di cultura tu vuoi. Tu vuoi una cultura fondamentalmente che riduca la gente a non pensare, e la cosa bella è che va tutta la mia solidarietà personale e politica agli studenti che si sono rifiutati di farlo, perché hanno capito che obiettivamente era un'ulteriore offesa alla loro vita scolastica e vita in genere. Dunque, per chi si occupa di scuola, questa questione della battaglia contro i test di valutazione non è una novità, insomma, è una cosa anzi che è circolata e che si è avuta anche con un certo spessore, una certa forza anche negli anni passati. Magari invece chi non se ne occupa quotidianamente, insomma, la rileva come un episodio nuovo, perlomeno insomma all'interno di questa ultima fase. Ecco, come ci si arrivati a produrre poi in realtà quello che sembra a tutti gli effetti un boicottaggio di massa, perché insomma a conti pratici l'operazione sembra davvero miseramente fallita. Allora, chiaramente io ti potrei fare una domanda, ti potrei dire qual è il primo governo nel quale è stata sperimentata la somministrazione del test Invalsi, e non è questo governo. Immagino quello Berlinguer. Cioè, giustamente tu, è stato proposto in forma sperimentale alle scuole primarie almeno da 10 anni con classi campione. E quindi non valuta tutti gli studenti e tutte le studentesse, ma valuta delle classi campione. Dovevano essere sempre sorteggiate, in realtà poi sono sempre le seconde e le quarte elementari per quanto riguarda la primaria, che insomma è l'ambito che io conosco meglio. La prima forma di contestazione gravissima e orribile è che per quanto riguarda i cosiddetti alunni disabili, il loro test è assolutamente inutile, lo fanno, dopodiché viene cestinato. Quindi tu valuti, è come dire che il loro cervello non è assolutamente valutabile, li scarti a priori, ed è una forma di umiliazione incredibile, una forma di cattiveria e di razzismo, insomma, che si commenta da sola, anche perché avere una disabilità non significa non ragionare, non studiare. Per disabile si intende, tra l'altro, con i tagli agli insegnanti di sostegno, si può intendere sia una persona alla quale manca un dito della mano, sia una persona che ha momentaneamente dei problemi di disagio mentale certificato. e quindi voglio dire è dire a tutto quello che non è conforme te non mi interessi, neanche ti valuto, ed è una cosa assolutamente umiliante, tant'è vero che si cerca sempre di non farlo sapere, di non dirlo ai bambini e alle bambine soggette a queste cose. Tra l'altro sono test di conoscenza della lingua italiana e si sa perfettamente come la composizione degli alunni e delle alunne sia caratterizzata in questi anni anche per fortuna da alunni e alunne straniere, quindi non parlanti l'italiano come prima lingua, e non c'è assolutamente una cura nell'uso delle parole per farsi capire da chi deve effettuare poi, chi deve fare poi questo test. C'è un italiano standard abbastanza contorto e con la logica di dei tanti distrattori, per cui tu devi, sono domande trabocchetto. Alcune sono in realtà domande, cioè test di abilità per quanto riguarda i bimbi proprio più piccini, associare una parola a un'immagine, però sono appunto a tempo. Si capisce che, voglio dire, mettere una cosa a tempo di velocità uguale per tutti, quando ci sono dei bambini e delle bambine che hanno problemi di apprendimento che si risolvono semplicemente con un più lungo tempo di applicazione, significa già tagliarli fuori e dire te non sei adatto. Tra l'altro poi alla valutazione di questo test conseguirà un premio economico meno alle scuole che lo effettuano. E questa è una cosa molto, perché la logica direbbe le scuole che ti dimostrano che ci sono delle cosiddette carenze vanno supportate di più, evidentemente avranno meno strumenti. E invece no, non si pensa né di potenziare le scuole che avranno che vinceranno l'ultimo, che prenderanno l'ultimo posto, non si pensa a potenziarle, ma ancora di più a depotenziarle. Di conseguenza è appunto, come dicevamo prima, una ulteriore scusa per l'attacco al servizio pubblico. Sarebbe come dire che in un ospedale dove ci sono più persone che hanno, che ne so, la febbre a 38, tu gli togli il finanziamento perché ci sono troppi malati. L'ospedale serve per risolvere la malattia, così come la scuola serve per fornire cultura e libera socialità, dovrebbe essere quantomeno. Dovrebbe. Allora, a chiudere, Margherita. Gerardo, però vuol dire, questa sarebbe l'intenzione di una scuola pubblica, formare e offrire opportunità senza le quali te non puoi stare in mezzo alla società, perché se non parli bene l'italiano non capisci quello che ti circonda, e se non hai imparato un pensiero critico accetterai tutto quello che ti viene proposto, perché il pensiero critico si impara appunto non imponendo le cose ma stimolando le discussioni. È tutto inutile, insomma, che faccio un discorso troppo lungo, poi diventa anche noioso. Ma la cosa grave è che comunque questi test invalsi non sono stati minimamente contestati, se non, come dice la Gelmini, che oltretutto non ha neanche il coraggio di dire che lei, appunto perché vuole tanto tutti questi test invalsi, voglio dire, se non ricordo male, lei ha fatto un esame in un'altra città diversa da Roma, perché era una città dove insomma si poteva essere promossi prima, quindi voglio dire meglio, quindi voglio dire da quale pulpito viene la predica di tutti i test uguali per tutti per evitare questo proliferare di altissimi voti. Mi sembra veramente strumentale e assolutamente razzista, ecco. E intanto, insomma, ci sono anche le guerre di cifre, nel senso che il Ministero della Pubblica Istruzione tenta di ribaltare la realtà, e leggo in una nota, insomma, che le percentuali di classi che non avrebbero eseguito il test sarebbero pari allo 0,13%, insomma, vabbè. Certo, cifre. Dicono che loro si stanno riferendo, non ti dicono prima di tutto a quali classi si stanno riferendo, perché se tu prendi tutte le classi dalla primaria alle scuole superiori e non dici che sono classi campione prima di tutto, quindi te, cioè, come al solito non è informazione ma è propaganda, perché se tu fai il numero delle classi che non si sono che si sono rifiutate o che insomma hanno consegnato foglio bianco, e stiamo parlando soltanto delle poche classi degli istituti superiori, cioè il secondo anno dell'istituto superiore, che è dove giustamente e fortunatamente gli studenti e le studentesse hanno fatto anche questo, e però questa percentuale tu me la paragoni al numero di tutte le classi che fanno l'Invalsi, cioè le scuole primarie, le scuole medie, dove questo non accade, perché per i bambini e le bambine di quelle scuole questo è un test come un altro, cioè è assolutamente un dato contestabilissimo proprio da un punto di vista numerico. E beh, certo, ma insomma ci sono poi i sindacati di base che danno percentuali diametralmente opposte, quindi insomma sì, è la solita. Ma comunque dal momento in cui i provvedimenti che sono stati presi nei confronti di alcuni istituti e valutandone la gravità, sembra che veramente questa volta la protesta abbia colto nel segno. Magari Margherita ci risentiamo proprio con le superiori e a quegli insegnanti che hanno tentato in qualche modo di boicottare, anche se bisogna dire che da un punto di vista proprio tecnico lavorativo chi ha fatto questo boicottaggio non ha praticamente nessuna garanzia, se non avere avuto detto sì, ok, voi vi rifiutate e noi poi copriremo, cioè vi offriremo un legale, che non è esattamente questo quello che si chiede a una lavoratrice, a un lavoratore, quando gli si propone di boicottare qualche cosa. Diciamo, bisognerebbe essere molto molto più incisivi, perché voglio dire, se io decido di fare una cosa individualmente e poi le ricadute verranno semplicemente sul mio posto di lavoro, avrò censure io, avrò delle cose io, è chiaro pure che il legale non lo scelgo io. Va bene, va bene Margherita, noi ci salutiamo e vediamo insomma di capire come si evolverà questa storia, e soprattutto se poi le classi, soprattutto quelle più incriminate che hanno dato vita a questo boicottaggio, insomma, come sapranno difendersi sicuramente. Sì, insomma, assolutamente, anche perché voglio dire ci sono degli alunni che sono stati sospesi, ai appunto, quali va tutta la nostra solidarietà, certo. Però voglio dire bisognerà assolutamente cercare di supportarli, perché poi esiste alle superiori il voto di condotta, cioè tutto, cioè la scuola viene distrutta nella sua vita sociale democratica piano piano con l'avallo di tutti, comunque di tutte le componenti, compresi appunto i famosi sindacati confederali, che non hanno detto nulla su questa cosa se non delle cose di facciata, per cui questi studenti, queste studentesse avranno una ricaduta sul loro voto di condotta, che poi avrà una ricaduta sulla loro valutazione finale all'esame di Stato. Quindi loro sono stati bravissime e bravissime, perché voglio dire, se non ti opponi alle cose che ti limitano, che devi fare? Cioè, è chiara questa cosa. Però è pure vero che il mondo della scuola è molto cambiato, soprattutto per gli alunni, ma anche per i docenti, e diventa sempre di più una gabbia, da un punto di vista tecnico legale, dove ti muovi c'è sempre qualcuno che te la farà pagare, o da un punto di vista valutativo, oppure da un punto di vista economico e sanzionatorio, quando parliamo dei docenti che si sono impegnati nel boicottaggio di questi test assolutamente inutili e dannosi. Perfetto, allora grazie, a presto Margherita, a presto. Prego, ciao ciao.